Blu Radio Veneto. Soinfo, salute e società. Punto radio a cura di Soroptimist International Club di Treviso in collaborazione con l'azienda ULS numero 2 marca trevigiana. Bentornati ad un nuovo appuntamento con Soinfo, il punto radio settimanale dedicato ai temi della salute e della società osservati attraverso uno sguardo plurale, quello delle donne, dei bambini e delle bambine. Questa settimana continuando ad indagare il mondo della salute dei più piccoli e cogliendo come spunto i piccoli grandi eccessi di zuccheri del carnevale, parleremo di corretta alimentazione. Le buone abitudini a tavola si imparano sin da piccoli? Ne parliamo con la dottoressa Giuseppina Girlando del Dipartimento di Prevenzione dell'azienda ULS 2 marca trevigiana. Buongiorno a tutti. Oggi si parla tanto di alimentazione, soprattutto di sana alimentazione a partire dai più piccoli. Per la prima volta nella storia, purtroppo c'è una brutta notizia, i nostri bambini rischiano di avere un'aspettativa di vita minore rispetto a quella dei loro genitori a causa dell'obesità e dell'inattività fisica. Quindi sia il movimento che manca sempre di più, i bambini sono sempre più fermi, passano sempre più tempo davanti alla televisione, davanti agli schermi, e anche la cattiva alimentazione molto ricca di calorie, di zuccheri e di grassi comporta appunto un rischio, un aumento di peso che poi viene mantenuto anche da adulti. Questo comporta delle malattie cardiovascolari aumentate, diabete e alcuni importanti tumori. Quindi diciamo che i bambini che oggi sono sovrappeso e obesi rischiano di rimanere tali nella metà dei casi anche da adulti. E allora cosa possiamo fare per invertire questa tendenza? Ecco, bisogna fin da piccoli abituare i nostri bambini a mangiare sano. Allora, ad esempio in America i pediatri americani raccomandano di non aggiungere zucchero agli alimenti dei bambini al di sotto dei 3 anni, mentre da noi diamo con molta facilità bevande zuccherate come la camomilla o il tè deteinato, che sono puro zucchero diluito in acqua. Questa abitudine, questo gusto che fin da piccoli apprendiamo di questi cibi molto dolci e anche molto grassi, si mantiene nell'adolescenza e quindi è difficile invertire la tendenza. Tutto ciò ovviamente è supportato anche dalla pubblicità, siamo anche vittime del commercio, i cibi che ci vengono proposti mirano anche a raggiungere il top del piacere, per cui mangiare alimenti più sani non ci piace più perché non rispondono al gusto a cui ci siamo abituati con gli alimenti appunto ricchi di grassi, di sale e di zuccheri. Una recente indagine che abbiamo effettuato in circa 3.000 famiglie dimostra che i bambini mangiano pochissima frutta e verdura, tanti snack salati e tanti dolci. Ecco, questa è la tendenza che bisogna invertire. Possiamo dire che i bambini mangiano molto meglio a scuola che fuori dalla scuola. Infatti le mense scolastiche offrono dei pasti sani che seguono le linee guida della sana alimentazione, cioè della dieta mediterranea, ricchi di verdure, legumi e cereali diversificati. Infatti, nelle regioni del nord e del centro, in cui le mense scolastiche sono molto più diffuse, c'è anche meno frequenza di sovrappeso e di obesità rispetto al sud, dove le mense scolastiche sono meno frequenti. Quindi bisogna iniziare a offrire ai bambini fin da piccoli quegli alimenti sani che all'apparenza sono meno saporiti, ma apportano in realtà molti più nutrienti rispetto a merendine, snack salati e zuccherati, bevande gassate e zuccherate. Questa sana alimentazione può iniziare fin dal mattino, quindi una colazione con proteine e cereali per dare la carica per la giornata non va mai saltata. E un altro elemento cruciale è quello della merenda. La merenda che svolge un ruolo strategico nell'equilibrio della giornata e quindi ha un valore sia di per sé ma anche per mantenere un sano equilibrio dei pasti successivi. È importante perché il bambino mangi in maniera sana che tutta la famiglia sia coinvolta, perché i genitori danno l'esempio anche nella sana alimentazione, quindi è importante che il bambino che mangia sano a scuola possa anche fuori dalla scuola, prima di tutto in famiglia ma anche nelle feste in compagnia con i bambini, continuare a mangiare in maniera sana. Soinfo, salute e società, punto radio, a cura di Soroptimist International Club di Treviso, in collaborazione con l'azienda ULS numero 2, marca trevigiana.